Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? E con questi suoni concreti, bentornati a Basement Records. Bentornati su Radio Wombat, buonanotte, buonasera a tutti e tutte. Dai, buonasera, buonanotte, un po' prestino, va bene che insomma, no. E qui è, come sempre, la sigla, i nostri suoni concreti. La nostra sigla psichedelica. Yeah. Psyché Rock di Les Hyper Sound, il progetto rock di Pierre Henry, il francese della musica concreta, avanguardista. Non smetterò mai di ricordare chi ha creato questa magnifica sigla che poi è diventata anche la sigla di Futurama di Matt Groening. E questo gruppo era il, diciamo, il suo giochino, di questo grande compositore che si divertiva. Sì, era il suo giochino pop, insomma. Sì. Dai, si può sempre stare dietro agli accademici, se no ci avrà avuto voglia di psichedelia anche lui in mezzo a tutti i professoroni, no? Certo, erano sempre, insomma, alla fine degli anni 60, quindi c'era necessità di psichedelia. Sì, c'era proprio nell'aria. Era nell'aere. Nell'aere. Scusate. C'è stato qualche problema di rientro. Bene, allora partiamo con la puntata di Basement Record, una grande puntata. Scusate per il ritorno. Per il ritorno, non sappiamo bene da dove arrivi questo. Noi non siamo noi che ritorniamo, perché noi ormai siamo partiti, quindi tornare è difficile. Siamo partiti e non ritorneremo. Allora, dicevo, una grande puntata questa con, se si può dire, un ospite, un ospite in vinile predominante. Tanti saranno, ospiti in tanti vinile. Ospiti, ma ci sarà un ospite in particolare che... per la gioia del nostro prog. Che proponiamo ben tre pezzi. Ancora è presto però, eh? Ancora è presto, sì. Partiamo dall'inizio, partiamo con calma. Ma prima dell'inizio vogliamo ricordare un po' i nostri canali. Ricordiamo, rinfreschiamo un po' la memoria ai nostri ascoltatori, allora, che magari potrebbero essere distratti. Sì, e ancora rinfreschiamo un po' la memoria. Il nostro sito è wombat.noblogs.org. Poi siamo anche su Twitter con Radio Wombat Fi, su Facebook radio-wombat-firenze e la nostra mail è posta@wombat.insiberia.net. E quindi a questo punto io partirei subito con il primo vinile della lista di oggi. E un disco del 1972, come primo stasera, per rimanere appunto nel triennio. Ricordo appunto che sono rigorosamente... la selezione musicale di Basement Records è rigorosamente vinilica e rigorosamente con 45 ritrovati dal niente, dispersi da oltre 30 anni. Come sempre, come tutte le puntate di Basement Records, ringrazio Stefanone per averci prestato i 45 ritrovati questo dispersi. Tesoretto. Sì, proprio la definizione giusta, direi proprio tesoretto. Tesoretto di Stefanone. Direi che c'è una bella crema. E il primo della crema di questa sera è Henry Chapin, che era un folk rocker dei tardi anni 60, inizio anni 70, e quindi partiamo soft con questo folk rock. Henry Chapin più che altro è ricordato per il suo grande filantropismo, per il suo attivismo in ambito umanitario. Basti ricordare che era tra gli organizzatori di grandi concerti di inizio anni 80, fine anni 70, come USA for Africa oppure il Live Aid, che sono stati concerti molto, molto grandi di beneficenza dell'inizio degli anni 80. E lui fondamentalmente era un folk rocker. E quindi a questo punto vi farei sentire per ora Any Kind of Day, 1972, Radio Wombat. I whistled round the day and I skipped up a footloose jig to the hurdy-gurdy music of the street. I looked up past those rooftops and I saw the cloudless sky, but I keep on asking why my life is passing by and I'm left up a high and dry. To cry, so I shrug my useless sigh, and I trust to things that other days will meet. And it was just any old kind of day, the kind that comes and slips away, the kind that fills up easy my lifestyle. The night brought any old kind of dark. I heard the ticking of my heart. Then why am I thinking something's left behind? Has had its laughing when the street lights blind the stars. So now it's shedding rain to sing its sorrow, sorrow. It's time for me to sleep and to rest these thoughts away. There's gonna be another day, hey, when things will go my say, and there's other songs to play, and there'll be time enough for thinking come tomorrow. And it was just any old kind of day, the kind that comes and slips away, the kind that fills up easy my lifestyle. The night brought any old kind of dark. I heard the ticking of my heart. Then why am I thinking something's left behind? Why am I thinking something's left behind? E questo era Harry Chapin con Any Kind of Day. Com'è che il romanticone che siamo diventati. Sì, una partenza molto sdolcinata. Però, guarda, io quasi quasi forse farei sentire anche l'altro lato di io... Chapin. Sì. Quasi quasi, poi se no potrebbero dire che siamo... un po' di parte, si mette solo un certo tipo di musica, guardiamo di accontentare siamo, un po' tutti. Sì, eh? Che siamo cattivi, che, siamo, che ascoltiamo solo la musica rock. Invece no, puri. Amiamo anche queste ballate più sdolcinate. E poi tra l'altro Harry Chapin era, è stato famoso più che altro per questa canzone che è Cats in the Cradle, che in molti magari pensavano che fosse di Cat Stevens, invece in realtà era proprio di Harry Chapin, e Cat Stevens aveva fatto una cover, forse è stata una delle sue canzoni più famose, anche se poi portata al successo appunto da Cat Stevens e non da lui. Sì. A questo punto finiamo con Harry Chapin dicendo che è morto nel 1981 a causa di un incidente stradale, quindi una morte diciamo abbastanza prematura. E anche abbastanza rock essere anche per essere un folker. Sì, eh? Sì. Va bene, allora sentiamoci l'altro lato, sempre di Harry Chapin, che è Could You Put Your Light On Please? Basement Tapes, anzi Basement Records, Radio Wombat. Could you put your light on, please? It's kinda dark tonight, and I feel a little lonely. Yes, I need a little light. Could you put your light on, please? Let me hear a friendly sound. I could make it through till morning if you could let your light shine down. She moves so well. Could 'cause she was a dancer. She went sliding through my questions, gliding round the answer. Whatever it was, she knew it was holy. And each time I tried to hold her, a smile plumb sad and slowly, she said, "No one knows me. Could you put your light on, please? It's kinda dark tonight, and I feel a little lonely. Yes, I need a little light. Could you put your light on, please? Let me hear a friendly sound. I could make it through till morning if you could let your light shine down." She had a dream, I had my typewriter, while I was hacking out such a heavy word, she was weaving one much lighter. But I never knew just how much it cost her. But each time I slipped beside her, something turned and tossed her. Questo era il lato A del 45 di Harry Chapin con Could You Put Your Light On Please. E ora passiamo direttamente al super ospite della serata. Ospiti. Super ospiti, sì, ospite come gruppo. E mettiamo il primo brano senza presentarvelo, così che vi facciamo una piccola sorpresa. Anche perché se non lo riconoscete ve ne veniamo a cercare a casa. Giusto? Giusto. Un brano del 1969. Prima che lo riconosce, telefoni. I saw a dark gun, but I'm out quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Questi erano i Kennedy Heat con On the Road Again. I super ospiti di stasera. Super ospiti di stasera, che vi proponiamo ben tre brani. Ovviamente questo era un singolo, perché noi abbiamo solo 45 giri. Tra l'altro il primo singolo estratto dal loro secondo album del 1968, Boogie with Kennedy, un successo veramente planetario. L'avrete sentita chissà quante volte questa canzone, con la sua con la voce in falsetto di The Bear, veramente inconfondibile. Bob Hyde. Esatto. I Kennedy sono formati nel 1965. Il gruppo era composto da Alan Wilson alla chitarra e armonica, bocca e voce, la voce in falsetto appunto di The Bear, Bob Hyde, e Harry Vestine alla chitarra e il bassista Larry Taylor. Tra l'altro Harry Taylor, molto importante, perché è stato un grande bluesman, avendo anche collaborato con l'eminenza grigia del blues inglese, con John Mayall, che ricordiamo è stato veramente uno dei prime mover del blues in Inghilterra, con i suoi Blues Breakers. Chiunque abbia suonato blues agli inizi degli anni 60 è passato dalla fucina di John Mayall e dei suoi Heartbreakers. Eric Clapton, Jimmy Page, ma potrei continuare chitarristi inglesi che poi hanno fatto blues rock, praticamente tutti. Sì, non solo chitarra, perché comunque è un polistrumentista. John Mayall, sì. Suona sì, tastiere, armonica. Sì. Tutto. Stavo veramente un grande John Mayall. Però ritorniamo ai Kennedy, perché sennò poi divaghiamo un po' troppo. E andiamo a presentare andiamo a presentare la prima che vi farò sentire, sarà Time Was di questo 45, che infatti è un 45 originale dei Canneditto, infatti entrambi i lati sono, a differenza dei 45 da jukebox, sono... Questo, abbiamo anche la copertina originale di questo? Direi di no. No, no, perché... Direi di no... Perché la copertina è di un Blue Note, e il Blue Note è un'etichetta jazz, quindi direi proprio che l'etichetta non è quella, non è quell'originale, ma il disco lo è, tanto ci basta, direi. Ci basta questo. Poi abbiamo anche qualche copertina originale che è rimasta. Sì. Qualche cosa di tutto completamente originale, sì, c'è. Quindi andiamo avanti con questo singolo del 1969, il primo brano è Time Was, che andiamo ad ascoltare. E loro ovviamente sono i Canneditto su Radio Wombat. Questa era Time Was, appunto, dei Canneditto, il lato A di questo 45 del 1969, e ora appena il tempo di girare, di cambiare, cambiare lato. E vi faremo ascoltare Lowdown, sempre dello stesso disco del 1969, con i Canneditto qui su Radio Wombat. Go! No wrong, I'm telling you, baby, it's all, it's all over now. I'm low down, daddy, it's true. Oh well, baby, better watch out, true. I'm gonna get you yet. Oh, you better not sweat. I'm telling you, baby, please, you're gonna come crying and tease. Look, baby, look all night long. Questo era decisamente il lato B del, del 45, direi. Sempre preso dal, dallo stesso album, del, ovviamente, di Time Was. Sì, questo brano non lo conoscevo, sinceramente. Io penso era... sia uno dei brani minori della, della, disco, della sì. grande discografia di Hendrix. Sì, sì. Un bel, comunque un bel blues molto, molto veloce, molto... Che poi tra l'altro, appunto come si diceva prima, i Ken Edith sono, sono stati insieme alla Paul Butterfield Blues Band tra i più grandi gruppi del blues revival americano, che ovviamente avendoceli in casa sono partiti con una decina di anni di ritardo rispetto come si diceva prima al blues revival inglese, come si diceva appunto di, che John Mayer era partito parecchio tempo prima rispetto all'altro lato del, dell'Atlantico, perché ovviamente il blues veniva dall'America, quindi direi che è quasi abbastanza normale che venga riscoperto da, da un'altra parte prima, visto che loro ce l'avevano in casa. Nemo, profeta. Sono il profeta in patria. Va bene, andiamo avanti e apriamo, avanti. Apriamo un altro tema, che è quello delle colonne sonore. Perché questo, questo brano è tratto dal film Exodus di Otto Preminger del 1960, e nel 1960 vinse l'Oscar per la colonna sonora. Pensate un po'. Scritta da Ernst Gold. E in questo, questo, caso... questo caso è interpretato da Ferrante e Teicher. Sì, Teicher. Teicher. Che sono due, fondamentalmente due pianisti classici che però si erano rivenduti, cioè rivenduti, diciamo che per non sopravvivere solo di accademia e di musica classica, reinterpretavano i grandi classici, la musica classica in, in versione pop, hanno collaborato con tantissime orchestre degli anni 60 e hanno, hanno fatto anche diversi, no, non solo questa di colonna sonora, ma hanno, hanno lavorato in, in diverse colonne sonore di film abbastanza conosciuti via, diciamo. E stavo dicendo che stavo introducendo questo, questo tema delle colonne sonore per presentarvi il... Dagliela spoilerata, dagliela! Un'altra, una nuova trasmissione qui su Radio Wombat che arriverà presto e si chiama Coming to Song. Coming Song. E tratterà praticamente la colonna musica e le, dei, dei film dagli inizi del, del sonoro fino ai giorni nostri. E sarà un... Tenete d'occhio il palinsesto, quindi. Palinsesto, comunque già vi anticipo che sarà il martedì dalle 7 alle 8 la sera. Poi con qualche eccezione, comunque siamo su, su, questo, su, su queste date e questi orari qua. Poi prossimamente verrete aggiornati in maniera ufficiale, ufficiale non intanto, ufficiosa come stasera. Sì, intanto questa è partita così. E allora adesso sentiamoci appunto il, la colonna sonora da Oscar del, dal film Exodus di Otto Preminger, e questi sono appunto Ferrante e Teicher con Exodus. Thank you. E con questa orchestrazione finisce la colonna sonora di Exodus di Otto Preminger del 1960. E a questo punto andiamo avanti con le colonne sonore. Con questo mood da original soundtrack. E questo brano è tratto da dal film 7 volte 7. 7 times 7. Del 1969, mi sembra. Sì, credo di sì. Composto dal maestro Armando Trovajoli, che è stato, diciamo, la colonna, non solo la colonna sonora, ma la colonna di tutto, diciamo, di gran parte del cinema italiano, il neorealismo italiano, soprattutto del neorealismo, appunto. Ha collaborato veramente con tutti i più grandi del neorealismo italiano, con Petroni, con Bava, con De Sica, con Scola, ma, con Dino Risi, ma anche nella commedia, diciamo, nella commedia degli anni 60, con, se appunto, Risi è stato veramente la colonna sonora del neorealismo italiano, sì. Si può dire, sì. Beh, basti pensare, che ne so, tra le tantissime colonne sonore che ha fatto, solo per ricordarvi le più famose, Riso Amaro, Ieri, Oggi e Domani, I Mostri, Matrimonio all'Italiana, cioè solo per dirvi i più famosi, cioè veramente una parte del grandissima parte del neorealismo italiano, ma il neorealismo, essendo neorealismo italiano, si può dire anche proprio del cinema mondiale, perché il neorealismo italiano è proprio parte integrante della storia della cinematografia. E in questo caso la colonna sonora di 7 volte 7, appunto scritta da Trovajoli, è suonata dai The Casuals, che erano un gruppo pop inglese, se non mi ricordo male. Sì, perché anche il film è una produzione, è il regista italiano, ma una produzione inglese. Una produzione inglese. Il regista mi sembra sia Michele Lupo. Sei te l'esperto. Vabbè, diciamo così, prendiamola per buona. Io mi fido, e andiamo con 7 volte 7. Well, when you feel like running out, when you feel it's not your night, it can go so high. When the cars don't go your way, carry on and play. Even when you think you're make us feel. E questi erano The Casuals con Seven Times Seven, sette volte sette, questo film italiano ma di una produzione inglese e ambientato in Inghilterra, come vede come protagonisti un Gastone Moschin e un Raimondo Vianello. Gastone Moschin e Raimondo Vianello, geometra Melandri che e insieme a altri attori internazionali, ora non mi ricordo, comunque ambientato in un carcere inglese e durante una finale di calcio loro, questi i protagonisti, organizzano la fuga dal carcere per poi andare alla zecca di Stato praticamente per falsificare le banconote, le sterline inglesi durante questa finale di calcio che comunque tiene tutti davanti al televisore o alla radio. Chi ha fatto palo? Grande citazione. No, oltre questa parentesi andiamo avanti con Basement Records qui su Radio Wombat e vi ricordiamo a questo punto gli appuntamenti di ottobre. Rifreschiamo un po' la memoria. Allora, per tutto il mese di ottobre il CSA Next Emerson festeggia il suo undicesimo compleanno. Happy birthday to you! E abbiamo sabato 21 ottobre uno spettacolo teatrale, un monologo teatrale che tratta della situazione in Palestina. Per aggiornamenti dovete guardare sul sito che è csaxemerson.it e lì ci saranno tutti i dettagli della serata. Ci sarà una cena più lo spettacolo teatrale e a seguire la milonga offerta da Tango Sognato al CSA Next Emerson. Proseguendo sempre con il programma dell'Emerson, venerdì 27 ci sarà un concerto con i Crime, Heil e i Loia. Venerdì 27, sempre per concludere tutti i festeggiamenti, martedì 31 ottobre, quindi diciamo la serata di Halloween, ci sarà una cena più la presentazione di un libro, Correvo pensando ad Anna, di Abatangelo, un autore fiorentino. E a seguire ci sarà la Horror Rockabilly Night e verranno da Padova, mi sembra, questo gruppo che sono i Moggis, un gruppo rockabilly, sono molto molto validi, molto simpatici anche. Non ve li perdete, potete venire anche vestiti in maschera. E a seguire ci sarà la DJ set degli Emerson Setters. Grandi Emerson Setters, un saluto agli Emerson Setters. Che allieteranno la nottata. Quindi andiamo avanti con Basement Records. E ora passiamo al prossimo disco che l'ho trovato e diciamo un po' l'ho messo anche per sbrodolarmi un po' addosso. Che questo proprio... ci tengo particolarmente a presentarlo, questo 45 della Tamla Motown del 1970. È il primo singolo che Diana Ross ha fatto uscire dopo la sua separazione dalle storiche Supremes, il suo primo singolo solista preso dal suo primo album. E questa canzone è Ain't No Mountain High Enough, che magari non vi dirà niente, però è scritta da due grandissimi autori e produttori della Tamla Motown, che sono Ashford and Simpson, che per chi ha a cuore come me la musica disco ricorderà sicuramente, sono stati due veramente grandissimi della scena della scena disco. Qui ancora erano nella fase solo di produzione e hanno scritto questa canzone, poi fatta cantare nel grande entourage della Tamla Motown da Diana Ross, appunto. E il suo esordio solista ha esordito, tra l'altro, subito al numero uno in America nel 1970. Però avevo piacere a ricordare questo pezzo, perché poi molti anni dopo sarà un pezzo veramente epocale per chiudere appunto questo cerchio, come dico sempre, che mi piace molto, perché poi nel 1981 verrà reinterpretato e riarrangiato e risistemato da un grandissimo della musica disco e della prima music house, uno dei più grandi produttori del suo genere, Marshall Jefferson, che riarrangerà appunto e riscriverà questa canzone per Jocelyn Brown, che poi nella sua versione, nel remix di Larry Levin, diventerà veramente un diamante della scena disco e della prima music house, si può già dire. E mi piaceva appunto fare questo circuito e questo parallelo per poi farvi appunto sentire la versione originale del 1970 di Diana Ross da solista dopo la divisione con le Supremes, e questa è Ain't No Mountain High Enough del 1970 su Basement Records. Call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No! Wombat, Radio Wombat. All we hear is Radio Wombat. Radio Wombat. Radio che emozione ancora. E dopo lo stacchetto di Radio Wombat andiamo avanti con Basement Records. E con il prossimo 45, che in questo caso è un altro veramente peso massimo della musica degli anni 60-70, infatti è Sly and the Family Stone, di Woodstock memoria anche lui, come i Canned Heat. Stasera c'è un grande afflusso da Woodstock. Sì, Woodstock e anche il Monterey Pop Monterey, Festival. Sì, che era o qualche mese prima o forse l'anno prima Monterey. Non mi ricordo, sì, no, non mi ricordo. È stato prima, sembra, ma non mi ricordo se un anno prima o qualche mese prima. Sembra sì, 68 Monterey, 69 Woodstock. Sì, sì, sì, l'anno prima probabilmente. Comunque Sly and the Family Stone sono famosi perché proprio erano una famiglia proprio, erano letteralmente sì, il gruppo era composto era letteralmente una famiglia, sì, familiari, proprio la famiglia e qualche amico, parenti, sì. Qualche amico, e tra l'altro erano tantissimi nella formazione originale. Ora non mi ricordo neanche quanti erano gli elementi del gruppo, ma erano sì, veramente svariati, compreso il coro. Sì. Sly and Family Stone sono stati veramente tra i gruppi più importanti del funk americano, hanno praticamente generato. Sì, il funk, il soul, la psichedelia. Sì, visto gli anni in cui siamo, molto, sì. Molto pregnato di psichedelia. Era un funk molto, molto psichedelico, sì. E questo è un loro pezzo famosissimo, tra l'altro, è Dance to the Music. E questo credo sia un brano successivo alla generazione Woodstock, alle prime. Sì, che è successivo, perché Woodstock era sicuramente nei singoli precedenti. I Want to Take You Higher è la canzone più famosa di Sly and Family Stone, che suonarono anche in una versione indiavolata proprio al concerto. Non poteva essere altrimenti, al concerto di Woodstock. Ma anche questa Dance to the Music è stato un grandissimo successo, sicuramente entrata nei primi posti in classifica della classifica americana. E ascoltiamoci questo funk indiavolato di Sly e la famiglia Pietra. Dance to the Music, qui su Basement Records. Won't hide. E questa appunto era Dance to the Music di Sly and the Family Stone. Un finale un po' strano questo, probabilmente non entrava tutto il brano nel 45 giri. È estremamente probabile. Visto l'hanno che... tagliato un po' con l'accetta. Visto che una facciata di un 45 giri massimo può contenere 3 minuti e mezzo. E... avendo un attimo un'idea di chi erano Sly and Family Stone, secondo me l'hanno decisamente tagliata. Sì, sì, credo. Sicuramente. Potevano andare avanti, soprattutto nei live, andavano avanti all'infinito. Addio. E io farei sentire anche il lato B di questo 45, trattandosi di un 45 di quelli da jukebox. E perché nel lato B, secondo me, ne vale la pena. Perché c'è un altro grande, anche se è completamente, totalmente un altro genere, perché qui stiamo ritornando in territori folk, e in questo caso è Donovan, che era un famoso cantautore scozzese degli anni 60 e 70, e questo tra l'altro è un disco... cioè un singolo estratto dal suo disco del 1900, anche questo del 1968, come quello di Sly and Family Stone. E pensate che comunque era proprio inizio anni 60, perché nel 1968 questo era già il sesto album per Donovan, quindi aveva proprio iniziato agli inizi degli anni 60. E qui stiamo parlando proprio di cantautorato, anche se questa Jennifer Juniper, secondo me, forse potreste averla sentita, che ha avuto anche abbastanza successo riuscendo a entrare tra le prime 20, direi, della classifica americana. Al tempo ha avuto abbastanza successo questo pezzo. E quindi vi farei sentire, a questo punto farei sentire appunto Jennifer Juniper di Donovan, sempre su Basement Records, Radio Wombat. Jennifer Juniper, viva la tua età. Jennifer Juniper, ingenuità. La cicala che ti sfiora, poi ti canta nella sera. Dammi un bacio, Jennifer, my love. Jennifer, Juniper, un sospiro va. Jennifer, Juniper, fiore di lilla. Ogni uomo che ti vede pensa un sogno e non ci crede. Io ti amo, Jennifer, my love. Tu vivi là sulla collina e ricordo che la prima volta che ti incontrai su lì più bella che mai, dormivi su di un prato. Jennifer, Juniper, ma chi ti invento? Jennifer, Juniper, vuoi amarmi un po'? Ogni giorno, ogni ora, c'è qualcuno che ti adora. Io ti amo, Jennifer, my love. Jennifer Juniper, Jennifer Juniper, Jennifer Juniper. Jennifer Juniper, vis sur la colline. Jennifer Juniper, assise très tranquille. Adora-t-elle, je ne crois pas. Respire-t-elle, oui, mais tout bas. Qu'est-ce que tu fais, je nie mon amour. Je n'en fais d'une peur. Je n'en fais d'une peur. Je n'en fais d'une peur. Avete notato qualcosa di strano? Questa ce la siamo tenuti per sorpresa anche questa. Ovviamente era la versione italo-francese di Jennifer Juniper. Però cantata da Donovan stesso. Non era una cover, ma era la versione originale ricantata in italiano, un po' in francese. Da Donovan stesso, che in quegli anni era... una cosa abbastanza normale, cioè sia i gruppi beat italiani, appunto come si diceva prima, rifacevano in italiano i pezzi famosi, le grandi hit internazionali, però erano anche i cantanti stranieri, appunto per vendere nel mercato italiano, che ricantavano se stessi nella lingua locale, sì. In questo caso metà in italiano e metà in francese. E a proposito di Italia, andiamo avanti, nello specifico di Firenze parliamo, perché andiamo a presentare un gruppo storico del beat italiano e soprattutto del beat fiorentino, che sono i Califfi. Gruppo di punta del beat fiorentino, direi. E nascono nel 1965 a Firenze su iniziativa di Franco Boldrini e nel 1969 si aggiunge alla formazione originale Paolo Tofani. Hai detto Stecco, Per non dire di peggio. Paolo Tofani degli Area. Quello che poi entrerà negli Area e farà, direi, decisamente la storia della musica progressive e non solo. Insomma, che tra l'altro ovviamente anche lui era di Firenze. E questo è un 45 giri originale, quindi... Copertina originale, con copertina anche lui. Originale con la foto dei Califfi. Sul lato A, un po' bazzoni, eh? E direi che come informazione di copertina ti potrei dire anche che questa canzone ha partecipato, pensa un po', a un disco per l'estate. Fogli di quaderno, esatto, del 1969. E poi avranno, diciamo, continueranno la loro carriera nei primi anni 70 pubblicando alcuni altri 45 giri e un LP più con sempre influenze beat, però un po' più prog, già un po' più progressive, sì. E qui entra il nostro prog, vedi, ritorna fuori ogni tanto. Reminiscenze prog. Proghiane. Quindi faremo sentire entrambi i lati, penso, di questo, di Califfi. Dai, siamo a Firenze. Un po' di campanilismo. Dai, facciamogli sentire entrambi i lati dei Califfi. Però prima il grande successo, Fogli di Quaderno. Fogli di Quaderno. I Califfi. Basement Records. Ho ritrovato un quaderno di te, c'è scritto due righe per me, l'hai scritta tu, ma non si legge bene. Io non ricordo più. Giro due foglie e capisco perché c'è un tema che parla di me, l'hai fatto tu. E parli di un amore che non ricordo più. Ti prego, torna. cerco più e non la cerco più. Questo era Fogli di Quaderno dei Califfi. E andiamo direttamente con il lato B, sempre i Califfi del 1969, La bellezza. Questi erano i Califfi, anche con il loro lato B. Direi ancora, certo, beat fiorentino, però ancora abbastanza, ancora lontani dalle hit dei giorni nostri, come il grande successo di quest'estate, che vorrei ricordare La frase storica di questo successo, non si può fare pubblicità, però direi che è proprio il ritornello dell'estate, ovvero ho smesso di credere a Babbo Natale da quando ho detto il mio primo Dio cane. Valeva la pena. Sì, assoluta citazione, saluto i creatori della hit dell'estate fiorentina. I poeti. I poeti. E andiamo avanti. andiamo avanti con un post, con un tardo beat. Torniamo sul progressive. Bisogna far felice un po' per uno, qui. E andiamo avanti con i Procolarum, gruppo storico inglese. Assolutamente storicissimo. Ha avuto anche una grandissima fortuna in Europa e soprattutto in Italia con... Sono stati coverizzati, sì, dai Dick Dick, se non sbaglio. Sì, e tra l'altro leggevo che tutte le versioni italiane dei successi dei Procularum sono stati riscritti in italiano da Mogol. E in questo caso il più grande successo dei Procularum, come tu mi insegni, caro Frog, è stato Wider Shade of Pale, che in quel caso Mogol riscrisse per i Dick Dick con il nome di Senza Luce. Senza Luce, mi ricordavo bene. E questo invece è il, penso, uno dei singoli successivi. Sì, è il 1969, l'anno successivo, sì. E anche questo forse il secondo più grande successo dei Procularum, ovvero Assault Dog, il cane salato. che è tradotto alle lettere cane salato, ma viene interpretato come il lupo di mare. No? Ah sì? Sì, sì, infatti il brano... È un, parla di un naufragio di una nave di marinai, dove praticamente si ritrovano in un'isola bellissima e dicono che quest'isola non è nel mondo, e quindi si scopre praticamente che sono morti tutti e si sono ritrovati in questo mondo fantastico, in questa isola dalle spiagge bianche. In effetti, a un sentire il mood del pezzo, in effetti... Sì, un po' una metafora del viaggio, una metafora della vita, della morte, dell'aldilà, forse. Sentiamoci questa Assault Dog dei Procularum, sempre su Basement Records. On Radio Wombat. 100% vinile originale. Nell'esecuzione dei Procolarum ascoltate Salty Dog. On deck, we run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no parts unknown to man, where ships come home to die. No lofty peak, no fortress bold could match our captain's eye. I Procolarum hanno eseguito E Salty Dog. No, fantastica questa versione da jukebox con la presentazione e la chiusura in italiano della tipa, favolosa veramente. Ma veramente una cosa, io non avevo mai sentito. No. Io proverei, a questo punto proverei a sentire se la tipa c'è ancora anche nel secondo lato. Sul lato B, che tra l'altro è un'altra bella canzone un po' più movimentata dei Procularum, che in questo caso è Long Gone Jake. Sentiamo se c'è la nostra amica anche sul lato B. Che ne pensi? Vai. C'è o non c'è? Wombat. Nell'esecuzione c'è. Ascoltate Long Gone Jake. We'll be right back. I Procolarum hanno eseguito Long Gone Jig. No, questa cosa è bellissima. Andrea, si dovrebbe andare a ricercarla, eh? Sì, in stile proprio Rai, presentatrice Rai anni sì, 60. Sì, davvero, fantastico. Ah, no. Infatti questo era un, anche se entrambi i lati sono dei Procolarum, anche questo è una un vinile da jukebox, però questa voce di introduzione... Completamente inaspettata. No, molto, davvero. Folcloristica. Sì, folcloristica, direi una piacevole sorpresa, ecco, sì, divertente. Bene, siamo arrivati alla conclusione di quest'altra puntata speciale. Andiamo di... avanti tutta la notte! Di Basement Records. Ancora, noi non siamo stanchi. Ci dispiace, ma anche le cose belle finiscono prima o poi. Il tempo è tiranno, poi ci tirano gli orecchi, ci tirano i nocchini, tutto. Quindi vi salutiamo, vi diamo il prossimo appuntamento per la prossima per la prossima Basement Records. A sorpresa, direi, no? Ma possiamo già anticipare, secondo me, tra un paio di sabato, visto che ormai l'andazzo è un sabato Tonight Alive e un sabato Basement Records. Quindi per non farvi annoiare sempre con le stesse cose, vediamo un po' di vediamo un po' di varietà. E quindi ci diamo appuntamento tra 15 giorni, sempre qui su Radio Womba. Basement Records, 100% vinile. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Womba! Radio Womba! Radio Womba! Radio Womba! Radio Womba! Radio Womba!